Sta fermo. Sta zitto. Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto. Guarda dove metti i piedi. Sta attento a non rovesciare l'acqua. E non lasciare cadere la penna. E non perdere i pastelli. Non giocare in cortile. Non correre sulle scale. Non fischiare. Non sbattere le porte. Non strusciare le scarpe. Non prendere calci e sassi. Sta buono perché la mamma è il mal di testa. Perché la maestra è il mal di testa. Perché la zia è il mal di testa. Perché la portiera è il mal di testa. Il bambino di jazz di Sergio Endrigo, da una fiaba di Gianni Rodari. Questa è stata messa in sonore, si contavano 40 anni ieri dalla sua morte. Una delle tante fiabe che hanno dilettato bambini e bambine, si può dire quasi di tutto il mondo, del grande maestro Gianni Rodari. Proprio a tal proposito, vi consiglio di dare un occhio alla rivista A Rivista di questo mese. Si vede un articolo di Alessio Lega e compagnia cantante che proprio ripercorre quei testi interpretati maestralmente da Sergio Endrigo. Ma sempre da... Intanto vi saluto, io sono Bricobaldo, questa è Radio Wombat. Mi state ascoltando, abbiamo un pad con il quale potete comunicare con me, con il quale addirittura mi potete anche infamare se volete. Intanto potete iniziare dicendomi se i volumi sono giusti. Lo apro davanti a me, lo trovate sulla pagina del blog, sul post, quello iniziale, wombat.blogs.org. Da lì accedete ai link sia per lasciare messaggi in segreteria che per poter scrivere sul pad, che comunque vi leggo l'indirizzo, l'indirizzo è pad.riseup.net/p/diretta/wombat. Da lì potete scrivermi, io leggerò in tempo reale, altrimenti mi scrivete sull'indirizzo mail posta@wombat.insiberia.net, altrimenti, per chi mi conosce, il mio numero di telefono, e questa volta non ve lo do, come è successo in passato, potete anche mandarmi dei messaggini. Il sottofondo naturalmente è di Radio Fusherman, ma sempre da Rivista Anarchica, da A Rivista di questo mese, vediamo Volumi buoni. Dai, perfetto. Alzo un po' tutto, così siamo a posto. Sempre da rivista di questo mese, mi è arrivato uno spunto, perché oggi è il 15 di aprile. E il 15 di aprile, voi direte, ma che cazzo di giorno è? Il 15 di aprile, esattamente di 100 anni fa, si parla del 15 aprile 1919, in una città del Nord America, veniva portata a termine una rapina a danni di due persone, di cui una era una guardia, un altro era un funzionario di un'azienda, di un calzaturificio, che fondamentalmente stavano portando le paghe degli operai di questo calzaturificio. Rapina che seguiva ad un'altra, invece avvenuta nel 1919, nella vigilia di Natale, per i quali poi furono arrestati esattamente il 5 di maggio due compagni italiani emigrati negli Stati Uniti. Si parla di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. La storia è nota, io però mi sento di ricordarla ancora. I due italiani vennero arrestati il 5 di maggio e inizialmente non capivano il perché, o almeno capivano il perché, ma lo additavano ad un fatto, diciamo alla risposta ad un fatto avvenuto pochi giorni prima. Loro si stavano organizzando, erano due compagni anarchici, stavano organizzando insieme ad altre persone un volantinaggio perché era stato ucciso un compagno era stato suicidato a Manhattan, cadendo da, guarda un po', da un ufficio della polizia. Storia strana questa. Fatto sta, loro vennero arrestati, erano in possesso anche di una pistola, poi dopo qualche giorno scoprirono con stupore che erano stati accusati dei colpi sia di quello della vigilia di Natale del 19 che di quello del 15 aprile del 1920. A nulla valsero tutte le mobilitazioni, anche che uscirono fuori dal confine degli Stati Uniti per cercare di liberarli, e così furono giustiziati il 23 agosto del 1927. Tutto questo assunse dei contorni assolutamente ridicoli, perché le accuse non reggevano in quei momenti. Erano entrambi a fare altre cose, assolutamente. Nicola Sacco si trovava a Boston quando è stato fatto il colpo del 15 aprile, si trovava a Boston perché stava mettendo insieme i documenti per poter rimpatriare in Italia. La madre era morta da poco e lui erano più di 10 anni, che quasi 10 anni che non la vedeva, e quindi aveva intenzione di rientrare in Puglia. L'altro, Bartolomeo Vanzetti, si trovava in strada non con il suo carretto, ma stava faticosamente cercando di riniziare a lavorare nel commercio del pesce. Stessa situazione era più o meno all'incirca nel caso della rapina precedente, quella del 24 di dicembre, che poi fra l'altro non fu neanche portata a termine, perché i colpevoli non riuscirono a rapinare quello che volevano, quindi insomma non ci riuscirono, quindi assolutamente la tesi non reggeva, però è stato un buon modo per le istituzioni degli Stati Uniti per portare avanti un'opera di repressione nei confronti degli anarchici, ma anche degli immigrati. Si deve considerare che gli immigrati italiani di allora negli Stati Uniti vivevano una situazione molto simile a quella che adesso vivono gli immigrati, e quindi fortemente discriminati, con grossissime difficoltà da un punto di vista sia di lavorativo che abitativo, tant'è vero che soprattutto per quanto riguarda Bartolomeo Vanzetti, negli anni precedenti aveva affrontato, negli anni e nei mesi precedenti al suo arresto, aveva affrontato una quantità di lavori sempre uno più precario dell'altro, un po' che ci può servire da contronarrazione nei confronti di un paese che si è sempre elevato a protettore dei diritti, della democrazia e della libertà. Così non era, così purtroppo possiamo dire, non è neanche in Italia qua oggi, per chi è arrivato e per chi continua ad arrivare. Questo è un tema che affronteremo in seguito, grazie alle voci di diverse persone. Andremo a fare un lungo viaggio in Puglia negli insediamenti informali. Negli insediamenti informali, ma non voglio partire da questo, bensì da un altro spunto, tornando ai temi attuali, quelli del coronavirus, quello che però io non lo metterei neanche al centro di tutta la questione, perché direi che a questo punto si può tranquillamente dire che al centro della questione ci sono le disuguaglianze che si vivono sempre, si vivono anche in paesi che apparentemente possono sembrare democratici. Vado a partire da un articolo comparso su Internazionale di questa settimana, si intitola I più indifesi dal contagio, comparso su Der Spiegel, un quotidiano tedesco scritto da, poi ve lo dirò. Fondamentalmente cerca di andare ad analizzare la questione del coronavirus, insomma, la questione sanitaria, però in quei paesi che sono più vulnerabili da tanti punti di vista, sia da un punto di vista sanitario che anche invece da un punto di vista economico, che sono tanti, sono veramente tanti tanti. Il sottotitolo dice appunto: il Covid-19 si sta diffondendo nei paesi più poveri del pianeta, dove mancano le risorse economiche e le strutture sanitarie per affrontarlo. Quindi si fa un gran viaggio da partire dalle favelas di Rio de Janeiro per poi andare non solo il Brasile, ma si parla anche e soprattutto dell'Africa. Mette in evidenza appunto, dice, i ricercatori dell'Università di Princeton negli Stati Uniti calcolano che senza contromisure il virus potrebbe contagiare fino a 400 milioni di indiani entro luglio. In realtà molti governi non sanno neanche dare un numero approssimativo delle persone infettate, fra questi anche l'Italia, fra l'altro, in quanto non sono stati fatti i tamponi nei test sierologici su larga scala, cosa che noi continuiamo a dire è di fondamentale importanza. In assenza di dati affidabili, molti esperti ricorrono alle metafore. Non a caso, in questi giorni, mentre la curva dei contagi di decine di paesi stanno per entrare nella fase di crescita esponenziale, si fa spesso riferimento ad uno tsunami che sta per colpire i paesi poveri. Miliardi di persone si chiedono chi li aiuterà in una crisi che li ha messi all'angolo, perché gli Stati Uniti, la Cina e l'Europa li hanno preceduti nella pandemia. Alcuni paesi come l'India e il Brasile sono grandi come un continente e sono delle potenze economiche, mentre altri come Haiti sono piccoli ed erano già molto poveri prima del Covid-19. Alcuni sono retti da sistemi democratici, altri da dittatori, populisti o signori della guerra, che fra l'altro non si ferma in molte parti del mondo, basta vedere dalla Libia alla Siria, anzi ci sono fazioni che ne approfittano per portare colpi che sperano siano decisivi. Tutto questo, tutte queste realtà sono accomunate da alcuni elementi, va bene? Le disuguaglianze sociali, l'alto tasso di malattie pregresse, le piccole elite e varie, e a volte formate da famiglie oppure clan che conducono una vita separata dagli altri. Inoltre, alcuni paesi equatoriali si illudevano di essere al sicuro, si diceva che i tropici, con il loro clima caldo, costituissero un ambiente ostile per il virus, e le immagini della Cina e dell'Europa sembravano suggerire che l'infezione uccidesse soprattutto gli anziani. Un punto importante per le società giovani come quelle, ad esempio, africane. La ricetta di alcuni capi di governo si limitava ad aspettare il virus, altri addirittura a ignorarlo, altri addirittura a comportamenti ancora più scellerati, come si fa il caso si parla della Tanzania, in particolare il presidente, che si chiama John Magufuli, che addirittura lancia appelli per riunirsi nelle chiese perché è convinto. È convinto, pensate un po', che il virus, che il nuovo coronavirus, sia il demonio, va bene? Quindi incapace di sopravvivere nel corpo di Cristo, e quindi dice: vai, fioscatevi tutti nelle chiese, che lì state a posto. Però fondamentalmente viene portato all'attenzione l'enorme scarsità di, insomma, dei sistemi sanitari, ma non solo, anche il fatto che buona parte di queste, dell'economia di questi paesi si fonda, buona parte della sussistenza delle persone che vivono in questi paesi si fonda su un'economia informale che assolutamente verrà devastata. E quindi tutto questo che cosa comporterà? Cosa comporterà? Noi non lo possiamo sapere, non lo possiamo dire, possiamo certo dire che ancora una volta sono le disuguaglianze quelle che creano i più grossi problemi. Non possiamo parlare di disuguaglianze prettamente in un singolo paese, perché come abbiamo potuto vedere, come abbiamo scoperto, incredibile scoperta del secolo, i virus non si fermano alle frontiere, bensì le travalicano. Quindi a mio modo di vedere è veramente inutile parlare di nazioni, parlare di regioni addirittura o di città, perché finché la questione non sarà pareggiata a livello globale, queste pandemie, questo tipo di problemi saranno per forza dei problemi globali, e quindi ha poco senso affrontarle in modo locale. Quindi un'altra cosa che posso consigliare di leggere è... Un'altra cosa che posso consigliare di leggere è un articolo che è uscito su Salute. Su Salute Internazionale, che parla proprio di questo, parla proprio dell'Africa. E Salute Internazionale è una piattaforma che tratta principalmente di salute, è un'ottima fonte, vi consiglio di andare a vedere saluteinternazionale.info. Quello che volevo leggere, o almeno citare, Apocalisse a sud del Sahara, punto interrogativo. Al momento, per ora, l'impatto dell'epidemia in Africa e in sud del Sahara non è dovuto a casi di decessi di Covid-19, ma alle misure repressive introdotte al fine di controllare il contagio. Bene, inizia dicendo: strage, apocalisse e catombe sono parole ormai usuali per descrivere l'impatto previsto del Covid-19 nell'Africa subsahariana. Il SARS-CoV-2, responsabile del Covid-19, diversamente dal coronavirus della SARS e della MERS, è arrivato in Africa subsahariana, e adesso abbiamo un po' di numeri che ci permettono qualche osservazione. Un po'. Sono veramente pochi da prendere assolutamente con le molle. Io fra l'altro non li leggo nemmeno, perché mi sembra assolutamente insensato. È insensato parlare di numeri in Italia, visto la scarsa tamponazione. Però diciamo che questi numeri vanno comunque interpretati, a detta loro, di Salute Internazionale, attraverso tre fattori fondamentalmente: sotto notificazione severa, un svolgimento più lento dell'epidemia, a quanto pare, questo sembra che si possa dire, e una minore incidenza reale di casi e decessi rispetto ad altre aree del pianeta, a parità di durata dell'epidemia, per peculiarità del contesto africano. Però, ci sono comunque riflessioni che possono prescindere dai numeri. 1. La lista di fattori protettivi è sfavorevole, e sfavorevoli per le popolazioni del subcontinente di fronte alla Covid-19 è lunga e solo in parte nota. Diciamo che a favore c'è una struttura demografica caratterizzata da una popolazione giovane, meno esposta alle forme gravi di infezione, la dispersione nel territorio e la bassa mobilità di una buona percentuale di abitanti. Fattori ambientali come temperatura, umidità e radiazione UV, che sono fattori invece possibili, altri fattori di tipo per ora speculativo o oggetto di ricerca, come costituzione genetica, immunizzazione crociata, ruolo del eccetera eccetera. Sfavorevoli invece sono sicuramente la malnutrizione ancora diffusa, ci sono ancora 25 milioni di persone HIV positive, di cui la metà non sono state trattate, la debolezza del sistema sanitario, l'enorme densità della popolazione, le condizioni di degrado degli slums, che rischiano di essere delle vere e proprie bombe, la poca disponibilità di acqua, per non parlare dei milioni di africani che vivono nei campi profughi o in condizioni di precarietà a causa dei conflitti. Poi, inoltre, forse è meglio essere prudenti su previsioni apocalittiche. Già per due volte è stato recitato il De Profundis per l'Africa subsahariana in occasione della crisi AIDS negli anni 80-90 e più recentemente con la crisi Ebola in Africa occidentale. Il continente non si è disintegrato passando però queste prove. La terza nota che possiamo fare, che fanno loro almeno, in una fase di oscurità sull'andamento dell'epidemia non dovremmo basarci solo su numeri ufficiali o su ricerche epidemiologiche di terreno. Al momento esse non sembrano praticabili, per quanto preziosissime, e anche il giornalismo, quello vero, può apportare elementi utili. Ad esempio, una morte per insufficienza respiratoria da Covid-19 è un evento molto drammatico. Spaventoso per il paziente, insostenibile per il familiare. Un aumento clamoroso di morti respiratorie acute, con le caratteristiche che abbiamo visto in Lombardia, si pensa all'ospedale Bergamo, verrebbero immediatamente rilevato dalla popolazione che è la vittima e dei mezzi di informazione. Al momento di scrivere queste note non c'è notizia di cluster di simili casi, neppure nelle megalopoli di Lagos, Kinshasa e Luanda. La quarta considerazione è che dovremmo anche raccogliere informazioni dei contatti personali che abbiamo nel subcontinente, quindi su questo ci possiamo attivare tutti e tutte. E al momento, fino a quando, si pongono la domanda, l'impatto dell'epidemia in Africa e sud del Sahara non è dovuto a casi di recessi da Covid-19, ma alle misure restrittive introdotte a fine di controllare il contagio. Queste misure sono cadute su una popolazione che è per il 30% si sveglia la mattina nell'incertezza di potersi alimentare nell'arco della giornata. Essa vive adesso sotto un grande stress, perché da un giorno all'altro è stata messa in causa la sua sussistenza, appunto, si diceva prima, no? con questa economia informale, che richiede grande mobilità, più assai che per paura di una malattia economica data dalla trasmissione insidiosa che si confonde con le altre. Il malessere popolare, anzi, è aumentato da questo senso di vaghezza nel quadro morboso, dalla ventilata alta mortalità, che però adesso avviene in paesi ricchi, nonostante dall'irrompere improvviso di questo problema. Il pericolo è che questo disagio esploda in forme di ribellismo di fronte ai poteri pubblici, delegittimati, conducendo a convulsioni e disgregazione sociale ben più mortifere del Covid. Inoltre, dicono, le classi dirigenti africane, anche per forte pressione delle elites urbane, di cui fanno parte, hanno assunto pienamente il modello del nord del mondo nella gestione della crisi, cioè misure restrittive di graduale intensità fino al cosiddetto livello 4, che è il lockdown nel caso del Sudafrica. Non è chiaro se hanno valutato bene i costi sociali di queste pressioni e l'effettiva capacità di imporla, così come la capacità dei governi di prestare soccorso alle popolazioni povere che dovrebbero star chiuse in casa in attesa che passi la tempesta. Hanno anche accelerato, con scarso senso critico, il razionale di questo modello, rallentare la progressione epidemica per non travolgere il sistema curativo. Ma in Africa, a sud del Sahara, non esiste alcun sistema curativo capace di far fronte a un'ondata di insufficienze respiratorie acute. La settima considerazione è, purtroppo, la crisi Covid-19 offre opportunità per retropensieri politici. Alcune elites africane, come nel nostro emisfero il signor Viktor Orbán nel caso dell'Ungheria, ma anche ancora più vicino, se basta andare in Slovenia, hanno accolto giubilanti alcuni modelli rigidi di restrizione, perché vi hanno visto la possibilità di accoppiare misure di salute pubblica con il bavaglio all'opposizione e alla società civile. Si pensa alla tematica della divulgazione di notizie false in contesti autoritari e di democrazia di facciata. Non vuol dir nulla, non ci vuole nulla a trasformare una raccomandazione etico-professionale ai giornalisti in misure di censura e repressione per persone, gruppi e movimenti scomodi. Inoltre, l'ottavo e penultimo punto di valutazione dice che, invece di imporre modelli, è meglio lasciare alle popolazioni africane e a coloro che le rappresentano il modo di affrontare con il pragmatismo, i compromessi, la creatività e la formidabile resilienza che hanno mostrato in altri momenti questa sfida. Inoltre, l'ultimo punto è proprio sulla base dell'esperienza italiana: non dimentichiamo la mortalità indiretta da Covid-19. vengono affrontati in Africa subsahariana, il rischio è che la nuova emergenza risucchi verso di sé risorse di ogni tipo da patogene, da patologie di altre mortalità. Quello fenomeno, ok, quindi questo è un articolo che è stato scritto da un medico, si chiama Rino Scuccato, e è comparso appunto su saluteinternazionale.info. Io vi lascio un minimo alla musica per poi ripartire, abbiamo diverse cose da dirci. Ci sentiamo fra poco. C'è tua madre dentro ad ogni boccone, la lingua batte sempre dove il dente duole. Prima la uccidi masticandole il cuore, poi da sola in bagno vomiti il dolore. Vorrei essere un letto infinito, farti star bene senza muovere un dito. Più lo faccio più tu mi sprofondi dentro, e pesi meno di quest'alito di vento che soffia sopra il nostro ordine formale, sopra questo impegnarsi e guadagnare abbastanza per comprarti quelle scarpe che ti fanno sentire alta e più importante. Cerchiamo qualcun altro da invidiare, un ristorante in cui poterci lamentare. Per 3 anni abbiamo chiuso il mondo fuori, stiamo diventando i nostri genitori. Nessuno se ne accorgerà. È tornata anche la bomba nucleare a ricordarci che non è poi così male. Un mondo di fotografie da pubblicare e messaggi che era meglio cancellare. Facciamo un giro sulla circonvesuviana mentre il vulcano sputa questa luna piena che ci guarda mentre tu mi dici basta, non più il cielo, il fuoco in una stanza. Che cosa dicono di noi? Nessuno ti sentirà. anche le foche bevono Radio Wombat. Something for all of those of you who live in the past, and that's about 99% of you idiots out there. Torniamo regia per parlare di una questione, o almeno approfondire una questione che in verità è già stata trattata in modo eccellente dalla trasmissione di oggi pomeriggio, Triade Contado, quindi io non posso far altro che rimandarvi a loro. Il buon Gringo e la Dama hanno approfondito la questione della grande distribuzione. Io lo faccio in un modo un po' diverso, a partire da un articolo di Jacobin, comparso il 1 aprile 2020, scritto da Carlotta Ebreo e Martina Locascio. Si intitola Una società grande quanto un supermercato. Una società grande come un supermercato. I decreti del governo favoriscono la grande distribuzione e il modello agroindustriale, ma oggi più che mai l'agricoltura contadina è necessaria a mantenere i nostri ecosistemi più sani e meno penetrabili dal virus. Nei sistemi ecologici, come il pianeta in cui viviamo insieme ad altre specie, uno dei principi chiave di funzionamento è l'interdipendenza. In questa crisi del Covid-19 gli elementi di criticità dei sistemi sono correlati come l'erano già prima: problematiche energetiche, disuguaglianze sociali, scarsità di risorse e insicurezza ambientale emergono progressivamente, facendosi sentire sempre più stretti in questo sistema. Già da tempo, come rivendicato dai movimenti contadini e da quelli studenteschi di Friday for Future, si è dimostrata la connessione tra modello industriale alla base del sistema agroalimentare dominante, cambiamenti climatici ed effetti negativi sulla salute umana. L'agroindustria si basa sul modello di produzione della monocultura per l'esportazione, una semplificazione genetica forzata rispetto alla naturale complessità dei sistemi ecologici che sono vivi e per esserlo necessitano di diversità genetica. I sistemi più semplici diventano deboli, come un corpo umano che, dopo una forte cura antibiotica che ha portato all'annientamento dei batteri e degli anticorpi, si presenta debole e penetrabile dalle patologie. I livelli produttivi delle monoculture si reggono su un utilizzo tale di pesticidi da causare avvelenamento diretto e indiretto degli ecosistemi e dei suoi abitanti, tra i quali noi umani, diretto attraverso i residui nei prodotti alimentari stessi, indiretto attraverso la contaminazione delle altre risorse, quali l'acqua, il suolo, l'aria. Questo modello di produzione e le sue innovazioni biotecnologiche causano lo spostamento di agenti patogeni dal loro habitat naturale al bestiame locale e nelle comunità umane. Questo si è già ampiamente dibattuto. Ciò avviene grazie al meccanismo di governance basate su un controllo della produzione esternalizzata e una distribuzione da una parte all'altra del globo dei prodotti finiti attraverso catene definite buyer-dryer, perché principalmente controllate dai grandi intermediari che operano nella distribuzione. Le catene di supermercati si basano su un meccanismo di approvvigionamento centralizzati e hub logistici su base regionale che hanno effetti significativi sui sistemi agroalimentari locali, tra cui la progressiva marginalizzazione delle attività di vendita al dettaglio tradizionale e dei piccoli produttori. Le catene di supermercati contribuiscono a omologare, secondo i principi della monocultura, le produzioni agricole nazionali. Chiedono infatti ai fornitori di conformarsi a una serie di nuovi standard di qualità e sicurezza alimentare che sono solo una minima parte dei produttori in grado di rispettarli, perché spesso non dispongono delle altre risorse per effettuare gli investimenti necessari. I supermercati, inoltre, attraverso questi meccanismi hanno assunto il ruolo di costruttori di significati su cosa sia sano, sicuro e giusto mangiare. La Supermarket Revolution in Italia, va bene? Oggi il 74,5% del commercio al dettaglio di cibo fresco e confezionato passa per questo canale, mentre il 13,4% resta ai negozi tradizionali. Nel 96 i dati si attestavano rispettivamente al 50% e 41%, quindi ecco, sono veramente sparite le botteghe, questi sono i dati che lo dimostrano. E vi discorrendo, questo è stato sì è così un po' per tutti i paesi europei, anche se è un po' anzi addirittura in altri paesi ancora di più, perché dice che in Italia i primi tre gruppi della grande distribuzione, che sono Coop Italia, Conad e Selex, hanno fondamentalmente il 36,1% del mercato. In altri paesi addirittura di più, i primi tre gruppi in Gran Bretagna e in Germania controllano il 61% del mercato, in Spagna il 54% e in Francia il 53% addirittura. E quindi i produttori sono estremamente calati, va bene? In Italia nell'82 avevamo 3 milioni di aziende agricole, nel 2014 erano 1,4. Perché vi dico tutto questo? Perché fondamentalmente la grande distribuzione è al centro di un tema che è ampiamente dibattuto, è quello dell'approvvigionamento agroalimentare. Approvvigionamento agroalimentare che è messo a repentaglio fondamentalmente dal fatto che non arrivano più persone, non ci sono più le persone che non ci sono più persone che vengono a lavorare. Però tutto questo naturalmente sono anni che i vari movimenti contadini, qui abbiamo, si può parlare di campi aperti, nel caso di, fondamentalmente dobbiamo parlare della rete genuino clandestino, che a Firenze vede il nodo Jérôme Laronce particolarmente attivo, e quindi per questo sicuramente la chiusura ulteriore del mercato di genuino clandestino a Firenze in Piazza del Carmine è un colpo ai reni dell'agricoltura contadina, e invece una grande stretta di mano alla grande distribuzione. Fra questo io vorrei citare anche la chiusura che è stata fatta anche dal Comune di Firenze degli Orti Sociali, che è stata fatta oramai più di un mese fa, veramente veramente insensata, perché magari sì, uno correva il rischio che ci fosse una scarsa adesione alle misure di sicurezza, però vorrei vedere che se si rischia meno andare a fare la spesa in un supermercato oppure a farsi il suo orto sociale, a coltivarsi il proprio orto sociale. Fatto sta che io sono andato a scaricarmi i dati dell'INPS, dell'Istat sulla grande distribuzione, e naturalmente non sono aggiornatissimi, non si può prendere il mese di marzo, tantomeno quello di aprile, però nel mese di febbraio si registrava già nella grande distribuzione un aumento rispetto al febbraio 2019 del 8,4%, più 8,4% del fatturato, soprattutto per quanto riguarda i beni alimentari, con un incremento del 10%, non alimentari invece del 5,4%. Invece una crescita minore si può dare alle imprese operanti su piccole superfici, che sono cresciute del 3,5%, vendite al di fuori dei negozi sono andate in calo, anche se pur di poco, il commercio elettronico naturalmente è esploso, le tipologie di servizio. Allora, nel febbraio 2020 gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare, tipo gli ipermercati, sono cresciuti quasi il 9%, quasi il 10% i supermercati, i discount anche, praticamente il 10% i discount giocano un ruolo veramente decisivo in questo, perché si fanno ancora meno scrupoli riguardo a diritti e ai vari acquisti. Inoltre, Inoltre, andiamo a vedere anche che cosa è andato per la maggiore dei prodotti, va bene? Allora, soprattutto c'è stato un grosso incremento nell'acquisto di generi casalinghi, durevoli, in particolare, vabbè, poi utensileria per la casa, prodotti di profumeria e per l'igiene, prodotti farmaceutici, mobili e via discorrendo. Però io cercavo in verità esattamente... No, va bene. Quindi fondamentalmente ci siamo buttati anche sulla grande distribuzione perché... perché fondamentalmente la grande distribuzione è quella che è in grado di fornire... generi alimentari che si possono immagazzinare, ecco. Ma non è solo questo, perché ci siamo resi conto che in verità per quanto riguarda il fresco invece c'è stata una piccola flessione, cioè quindi abbiamo teso in generale a comprare più generi alimentari che possono essere conservati. Questo come si ricollega a quello che come lo possiamo interpretare e soprattutto come possiamo interpretare le scelte portate avanti dalle varie amministrazioni che hanno visto lasciare aperti tutti i supermercati per andare a chiudere le piccole produzioni. Lo possiamo leggere sicuramente un po' come un continuo di quello che è successo fino ad oggi, anzi forse lo possiamo leggere un po' come il colpo ulteriore nei confronti della piccola produzione. Così come abbiamo visto che Confindustria è in grado, insomma, è un gruppo in grado di influenzare fortemente le scelte politiche per quanto riguarda l'industria pesante e non, così la grande distribuzione sembra essere stata in grado di influenzare i governi e le amministrazioni per far sì che fondamentalmente si vada a fare la spesa sempre più in grandi magazzini e non nei piccoli mercati contadini che hanno un rispetto e una tutela del territorio maggiore. Questo direi che è perfettamente in linea con tutto quanto sta succedendo e naturalmente non solo, ma va ancora una volta ad aumentare le diseguaglianze. Perché? Perché la grande distribuzione non solo ha il potere di riuscire a contrattare con le istituzioni riguardo a norme e usi delle popolazioni, ma ha anche il potere di imporre i suoi prezzi sui produttori. Tant'è vero che, seguendo la legge di mercato, il prezzo dei generi alimentari in un momento come questo non è sceso assolutamente per niente, anzi è salito, c'è più richiesta, quindi naturalmente si può alzare i prezzi. Questo ci riporta un attimo, ci conferma quanto queste persone, queste organizzazioni se ne fottano totalmente del bene e delle emergenze e su chi ricade tutto questo. Naturalmente ricade sugli agricoltori che laddove non sono disposti a lottare contro questo modello, come fanno le compagne e le compagne di Genuino Clandestino in tutta Italia e anche un po' in tutto il mondo, laddove non sono disposti si devono adeguare. Adeguarsi vuol dire sicuramente andare a accettare i prezzi di acquisto della grande distribuzione, che spesso sono stracciati. Possiamo vedere ogni anno nel sud Italia che a volte addirittura le colture non vengono neanche raccolte perché non conviene neanche raccoglierle, si spende di più a raccoglierle che quello che si guadagna vendendole. E quindi qual è il vero anello debole di tutta questa faccenda? Il vero anello debole sono alla fine dei conti chi va a lavorare, chi va a raccogliere tutte queste enormi monoculture. Si parla naturalmente principalmente del sud Italia, visto che il 60%, sempre da fonti Istat, il 60% della produzione agroalimentare arriva dal sud Italia. In Toscana in Toscana il centro Italia invece ne produce circa il 15%, il restante il nord. per la Toscana probabilmente il discorso è particolare, perché si parla principalmente di produzione vinicola, che attualmente è completamente crollata, visto che principalmente è indirizzata verso il mercato estero. Attenzione, tutto questo, i crolli di questi mercati non vuol dire che non necessitino comunque di una manodopera, perché insomma, non puoi certo abbandonare uliveti, vigneti e via discorrendo. Comunque, tornando lì, ne parlo perché la questione che è venuta fuori negli ultimi tempi, anche con i ministri, la ministra Bellanova e altre personalità, hanno risposto anche al dibattito pubblico, soprattutto per la mancanza di lavoratori. Principalmente insomma, l'agroalimentare si basa su lavoratori che arrivano stagionalmente, in particolare dall'est Europa, che quest'anno non arriveranno, va bene, quindi c'è un buco veramente di decine e decine di migliaia di lavoratori che non potranno andare a raccogliere. Si parla infatti, ma perché i disoccupati italiani non possono andare, ma perché chi è in cassa integrazione non può andare, vi discorrendo. Ma l'altro tema che è dibattuto è per fortuna quello di una sanatoria per i migranti. Va bene, i migranti che sono i principali lavoratori nelle campagne del sud, che vedono, insomma, hanno difficoltà sempre maggiori dovute a tanti fattori, ma principalmente si possono ricondurre tutti a quelle delle disuguaglianze. Ma non per ultimi sono, insomma, i decreti sicurezza che stanno portando sul territorio italiano una quantità di persone senza il benché minimo diritto, quindi lavoratori invisibili che di fatto fanno comodo alla grande distribuzione. Allora, per trattare questo tema io sono andato a cercare persone che vivono il sud, appunto essendo la principale area interessata, e ho raccolto due contributi. Il primo contributo è portato da Raffaele Falcone, un rappresentante di Fly CGL, che opera proprio nel Foggiano. Il secondo contributo, che sentiremo in seguito, invece è Alessandro Verona, che affronterà la questione da un punto di vista invece sociosanitario, trattandosi di un medico che opera attraverso una ONG che si chiama InterSOS, opera proprio nei ghetti. I quali ghetti? Insediamenti informali, sono vari e svariati, ma non si può neanche riportare l'attenzione esclusivamente sui ghetti, visto che ospitano sì tante persone, ma tante persone in verità sono anche disseminate nel territorio, in vari edifici, occupati o meno, di per sé spesso occupati o in tendopoli, e quindi, vabbè, prima vorrei un attimo. La questione dei ghetti è molto interessante sotto tanti punti di vista, sotto altri è veramente agghiacciante, anzi diciamo il contrario, sotto tanti punti di vista è agghiacciante, sotto alcuni punti di vista invece è affascinante. Proprio quest'anno nello spazio della polveriera, nella polveriera Spazio Comune, abbiamo avuto la possibilità di presentare un fumetto che si chiama Il Gran Ghetto, racconta proprio del ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Ghetto di Borgo Mezzanone, poi magari sì, era in occasione degli inchiostri ribelli del 2019, quindi trovati addirittura sul blog di Radio Wombat il post datato 2 ottobre 2019, la presentazione di un fumetto, questo qua. Fumetto che ci permette, attraverso le peculiarità di questo mezzo, di veramente immergerci nella vita delle persone che vivono in questi luoghi. Luoghi appunto estremamente duri da un punto di vista sanitario, da un punto di vista abitativo, che però hanno insiti dentro di loro delle enormi capacità di auto-organizzazione. Forse non solo a volte invidiabili, ma anche dovremmo veramente imparare molto da queste situazioni. Ognuno di questi ghetti ha una storia a sé e sono veramente diversificate. Io non sto qui a raccontarle perché non sono neanche la persona giusta, però se vi andate a riascoltare il podcast di questa presentazione sicuramente potrete approfondire molte questioni. Fra l'altro vi era, durante la presentazione vi erano gli autori, ma vi era anche un urbanista che ha studiato sul tema, e quindi ci sono anche opinioni diciamo molto approfondite e professionali. Vi erano anche naturalmente degli attivisti che hanno vissuto lì. Fra l'altro, in uno di questi ghetti fino a poco fa vi è stata una proprio a Borgo Mezzanone vi è stata una radio ghetto, un'esperienza che purtroppo si è conclusa, ma che a detta di chi vi ha potuto partecipare e di chi ha potuto portarla avanti è stata veramente, veramente emozionante e positiva. Era una radio pirata, trasmetteva sulle onde FM, purtroppo varie vicissitudini hanno portato alla chiusura. Comunque, bando alle ciance, io vi direi che vi faccio intanto ascoltare il primo contributo di Fly CGL con Raffaele Falcone. Buon ascolto. Raffaele Falcone di Fly CGL, buonasera. Buonasera a tutti. La chiamiamo in merito alla questione del lavoro, soprattutto nel settore agroalimentare, e ci riferiamo alla Puglia, visto che il Sud Italia è il territorio che più produce per questa fetta del mercato. Vorremmo sapere la questione dei lavoratori, soprattutto della carenza dei lavoratori, come stanno attivando i sindacati anche a tutela dei diritti che spesso vediamo violati nei campi della Puglia in questo caso. Sì, come hai detto tu, la Puglia, il Sud Italia, ma soprattutto purtroppo anche la provincia di Foggia è conosciuta come una delle province con tra le più importanti province d'Italia per la produzione agricola, soprattutto degli ortaggi. Famosi sono la raccolta del pomodoro e il cosiddetto oro rosso, che viene appunto prodotto e raccolto in agosto, ma è anche conosciuta dall'altra parte per una serie di negatività che vedono appunto i lavoratori, soprattutto lavoratori migranti, che vengono sfruttati in questo territorio da ormai secoli, prima i lavoratori italiani e poi i lavoratori appunto migranti. Questo fenomeno appunto è un fenomeno che proviene da lontano e che ha visto poi trasformarsi nel tempo con appunto l'aggiunta non solo dello sfruttamento ma anche di uno stato di bisogno di questi dei lavoratori migranti, che evidentemente è maggiore perché appunto legato a una povertà più forte e legato alla questione dei documenti e dei permessi di soggiorno. Per questo la provincia di Foggia è conosciuta per una richiesta di manodopera, una forte produzione agricola, ma anche per dei ghetti, che sono queste grandi bidonville, degli insediamenti informali fatti di cartone, plastica, dove vivono all'interno di tutta la provincia più di 10.000 lavoratori africani, che vengono sfruttati dalle aziende, che vengono portati al lavoro e anche sfruttati dai cosiddetti caporali, che sono degli intermediari, cioè delle persone che prendono i lavoratori da questi ghetti, molte volte sono connazionali, che prendono i lavoratori da questi ghetti e poi li mettono 20-30 persone nei furgoni e li portano a lavorare nelle aziende agricole. Ecco, proprio riguardo a questo, la questione attuale diciamo è soprattutto la carenza di lavoratori che stiamo vedendo per il settore agroalimentare. Ne sono seguite molte dichiarazioni da parte anche delle istituzioni, in primis la ministra Bellanova. A volte però ci viene da pensare che i caporali non sono altro che un anello di una catena di sfruttamento che inizia molto più in alto. No, l'anello dello sfruttamento, i caporali fanno parte appunto di questa catena dello sfruttamento, sicuramente la grande distribuzione organizzata ha le sue colpe, sicuramente i datori di lavoro fanno parte di questo sistema. E sicuramente anche il dover vivere in Italia legati alla possibilità o meno di avere un documento di soggiorno e fa parte appunto di diciamo che mantiene questa situazione di ricattabilità. Infatti per ritornare a quello che dicevi tu, tanti lavoratori è vero che sono rimasti nei paesi d'origine, soprattutto quelli neoeuropei, per l'emergenza del coronavirus, per l'emergenza sanitaria, però è vero che in Italia, non solo a Foggia, ma io posso garantirlo per questo territorio, ci sono migliaia e migliaia di lavoratori che vivono nei ghetti, che hanno lavorato in questi anni e che hanno lavorato a nero perché sono senza documento. Per questo noi chiediamo semplicemente queste persone diventino finalmente visibili, cioè dare un documento alle persone che l'hanno perso, non per colpa loro molte volte, ma semplicemente per burocrazia, per problemi legati a una stabilità lavorativa che è difficile avere nell'agricoltura. Per questo ricominciamo da chi c'è in questo territorio, cioè diamo dignità ai lavoratori, diamo un documento, diamo il permesso di soggiorno e poi capiamo effettivamente il fabbisogno che hanno le aziende, di quanta manodopera hanno bisogno. Proprio riguardo alla sanatoria, l'hai citata, è una cosa, come già detto, che è stata anche alcuni ministri si sono impegnati per portare questo risultato. Però a noi viene da pensare che non è sufficiente una sanatoria, cioè non sono sufficienti i documenti, visto che spesso i lavoratori vivono situazioni di grossa precarietà anche da un punto di vista abitativo e anche sanitario, quindi a parere di Fly CGL è una misura sufficiente quella della sanatoria oppure servirebbe un approccio più ampio e multidisciplinare? No, guarda, allora noi adesso abbiamo un problema che è estremamente emergenziale sulla questione sanitaria, perché, ripeto, se dovesse scoppiare il virus nei ghetti diventerebbe un problema enorme, perché appunto si vive in maniera molto affollata in questi insediamenti, non ci sono medici, non hanno medici se non dei volontari, non, la maggior parte non hanno un medico di famiglia, per questo e molti sono appunto segregati in questi ghetti perché se non hanno i documenti non riescono neanche ad andare in città a fare la spesa, non riescono neanche a muoversi, per questo è una specie di carcere a cielo aperto. Per questo bisogna dare immediatamente i documenti alle persone, anche e soprattutto per la questione sanitaria. Poi resta la questione agricola aperta, e questo è chiaro che il sistema agricolo così, ma noi lo diciamo da anni, è un sistema che non regge. Non regge perché il sistema è costruito esclusivamente sullo sfruttamento, è costruito molte volte su illegalità ed è costruito un ribasso del mercato che poi non agevola neanche le aziende sane, perché l'azienda che vuole stare nella legalità, che vuole pagare onestamente i lavoratori, si vede una concorrenza spietata invece delle altre aziende che non rispettano la legge. Ed è chiaro che bisogna ripartire da quello che ci siamo sempre detti, cioè da un'accoglienza dignitosa, per questo via i ghetti, non è possibile che si viva in Italia in quel modo, un sistema di trasporto che garantisca appunto ai lavoratori la possibilità di andare a lavorare nelle aziende, anche un trasporto pubblico, un'alternativa credibile a quello che è il trasporto dei caporali, e un collocamento che ritorni a essere un collocamento pubblico, un collocamento vero. È chiaro che oggi c'è una difficoltà da parte delle aziende a reperire i lavoratori, è chiaro che per i lavoratori c'è difficoltà a trovare delle aziende, e per questo c'è bisogno di uno strumento che mette insieme le due cose. Quale potrebbe essere questo strumento? Ma allora io ti dico, noi come noi in Puglia, in provincia di Foggia, abbiamo sperimentato tantissime soluzioni. Può essere un'app tecnologica, molti caporali oggi utilizzano la tecnologia, utilizzano WhatsApp. Possono essere le liste di prenotazione, che è quello che abbiamo sperimentato in Puglia, cioè delle liste speciali in agricoltura dove il datore di lavoro si può collegare in ogni momento della giornata e della notte per trovare lavoratori, e i lavoratori possono inserirsi ogni qualvolta vogliono. Cioè, il problema non è trovare le soluzioni, sono state messe in campo non solo da questa regione ma in tutta Italia, e anche in maniera sperimentale, varie possibilità di uscire fuori da questo sistema. Il problema è che ci vuole la volontà politica di farlo, cioè ci vuole la capacità del sistema imprenditoriale agricolo di diventare finalmente un sistema imprenditoriale pulito e che vuole fare realmente impresa. Se si vuole continuare invece su questo mondo, su questo modo di fare, è chiaro che tutte le proposte messe in campo, se non vengono adottate, se non vengono utilizzate, rimangono morte. Hai citato diversi strumenti, io volevo farti una domanda riguardo alla questione dell'incontro tra la domanda e l'offerta in ambito agroalimentare, perché una delle proposte che sembra più in voga è quella dei voucher. Quindi la retribuzione dei lavoratori attraverso i voucher, che però a mio parere sono degli strumenti che tendono a precarizzare molto la manodopera, con tutta una serie di conseguenze, in primis il fatto che una persona retribuita con i voucher ha una grossa difficoltà, ad esempio, a poter pagare un affitto. Quindi voi lo reputate uno strumento utile, quello del voucher, oppure insufficiente? No, allora il voucher è uno strumento inaccettabile. Guarda, questo è quello che dicevo esattamente prima che mi facessi la domanda. Cioè, il problema è: si vogliono risolvere le cose o si vuole continuare a fare propaganda? Perché in questo momento di difficoltà enorme, dove anche le aziende hanno delle difficoltà, allora o ci mettiamo e proviamo a risolverli i problemi, oppure si fa demagogia. Allora, i voucher sono demagogia, perché i voucher non risolvono assolutamente il problema. Non risolvono il problema di trovare manodopera, e non risolvono il problema di portare le persone a lavorare, perché non sono assolutamente più attraenti del contratto, anzi sono estremamente peggiorative, perché i voucher non riconoscono né una contribuzione valida ai fini poi previdenziale e assistenziale, non riconoscono neanche l'indennità di malattia. Cioè, il voucher non ti permette neanche di avere un'indennità se poi il lavoratore sta male. Ma allora è proprio il contrario la questione. Cioè, per invogliare le persone ad andare a lavorare nei campi bisognerebbe pagarle di più, non pagarle di meno e dargli meno diritti. Dall'altra parte, appunto, se la questione è dove trovare i lavoratori, sediamoci e capiamo come trovare i lavoratori. Partiamo e chiediamo innanzitutto tutti insieme una regolarizzazione dei lavoratori che sono su questo territorio, perché non fa bene solo all'agricoltura, questo fa bene a tutti, perché tenere gente senza documenti nel territorio italiano e che lo Stato non riconosce non è positivo neanche da un punto di vista di sicurezza. E poi capiamo se c'è bisogno di far venire altri lavoratori dall'est o da altre parti di Europa. Allora, su questo noi siamo favorevoli a dialogare, a trovare delle soluzioni. Dire apriamo ai voucher vuol dire fare esclusivamente demagogia, perché ricordo che il sistema agricolo è quello lì dove si pagano meno tasse in assoluto, cioè i datori di lavoro pagano meno, agricoli pagano meno tasse in assoluto di tutti gli altri settori, hanno delle agevolazioni e una scarsissima burocrazia, per questo non è un problema da questo punto di vista, è solo una questione di eliminare ulteriormente diritti ai lavoratori, su questo noi non ci siamo assolutamente. Punta il dito negli ultimi giorni contro la grande distribuzione che instaura un meccanismo che poi si conclude con la precarietà sia lavorativa che abitativa. Una delle soluzioni che viene data a questo meccanismo è quello di comprare italiano, del Made in Italy fondamentalmente, il che non esula dall'andare a foraggiare un mercato che appunto è complice se non architetto dello sfruttamento. Ci sono delle soluzioni a questo tipo di problema, e cioè voglio dire, ci sono delle soluzioni per convertire queste grandi culture, queste grandi monoculture invece in forme che siano più sostenibili sia per il territorio e quindi anche di conseguenza per i lavoratori? Allora, noi abbiamo una grande sfida soprattutto le imprese agricole nei prossimi anni, perché guarda, il meccanismo è proprio il contrario, perché io parlo molte volte con persone che non sono italiane, che sono di altri stati europei e hanno fortemente difficoltà a comprare un prodotto italiano, perché quel prodotto lì è visto come un prodotto che sfrutta le persone e che crea morti e che crea sfruttamento. Allora noi abbiamo proprio da fare un lavoro per ridare qualità, anche eticità al prodotto italiano, ma questo passa dando diritti alle persone che ci lavorano. Dopodiché io so benissimo che la grande distribuzione è un problema, che le aste al doppio ribasso sono un problema in questo paese, e io sono disponibile a intraprendere una lotta con gli imprenditori seri, con gli imprenditori che fanno impresa eticamente, per far sì che la grande distribuzione dia più soldi ai datori di lavoro. Ma su questo io sono disposto nel momento in cui conosco chi è il datore di lavoro, perché fare una battaglia a prescindere, questo io non me la sento, anche perché ti posso assicurare che molte volte, anche se la grande distribuzione dà qualche centesimo in più alle aziende, poi loro non la danno ai lavoratori. Per questo io ho un problema adesso, e far rispettare i contratti alle aziende e far sì che i lavoratori che lavorano e che buttano il sangue dalla mattina alla sera nei campi vengano rispettati e pagati. Dopodiché le aziende, le associazioni datoriali facessero la loro battaglia con la grande distribuzione, io sono disponibile a farlo però con le aziende che conosco, non a prescindere. Sulla terra zappò e raccolto una mattina al mercato portò cotone, banane, cacao e caffè. Dopo un anno di lavoro quanto pezzi gli hanno dato? Tre, solo tre, di peso solo tre. Dopo un anno di lavoro di peso solo tre. Panama stivali, faccia bianca e lavata, parla inglese, ti ha comprato il caffè. Cotone, banane, cacao e caffè. Per un'ora di lavoro quanto pezzi gli hanno dato? 3.000 pesos, 1.000 per tre. Un'ora di lavoro e 1.000 pesos per tre. 3.000 pesos, 1.000 per tre. Un'ora di lavoro e 1.000 pesos per tre. Cotone, banane, cacao e caffè. Per cambiare continente impiegano un mese e tre. 3 milioni al grossista francese. Ci metto 2 secondi con il World Wide Web. C'è l'industriale che urla incazzato, meno operai, siamo fuori mercato. Poi guarda il Rolex, è fatto già tardi, e torna alla sua villa di svariati miliardi. 3.000 peso non bastano più, si parte da 1 milione, si va sempre più su. 3.000 peso non bastano più, si parte da 1 milione, si va sempre più su. Abbiamo sentito, Raffaele di Fly CGL, e, che dire, su alcune cose mi trovo molto d'accordo, su altre ho un'opinione un po' leggermente diversa. Andiamo velocemente al seguito perché sono un po' in ritardo. E dopo di me seguirà un grande aggiornamento sulle questioni, sulle vertenze aperte nell'area Firenze Prato, ma prima abbiamo un'intervista ad Alessandro Verona, che è un medico che lavora proprio nei ghetti. Sicuramente balza all'occhio che le proposte che vengono avanzate dal governo e dalle varie istituzioni, appunto i voucher, si punta un sacco sui voucher senza considerare che i voucher sono una di quelle fonti di disuguaglianza e appunto non possono assolutamente essere sufficienti per sanare una situazione che è stata creata anche attraverso tutti questi meccanismi economici e di retribuzione. Quindi, andando sui ghetti, sentiremo appunto Alessandro, ma prima vi voglio consigliare di dare un occhio a una piattaforma. Si chiama Rompiamo la catena dello sfruttamento lavorativo, liberiamo i diritti, una piattaforma che è stata redatta da tutta una serie di associazioni, tra i quali c'è anche Fly CGL, c'è InterSOS, c'è Africa United, AIMS, ANOL Puglia, ASGI, Caritas di Borgo Mezzanone, il centro culturale Baobab, sotto le stesse ombre, Cooperativa Sociale Alcobaleno, Fly CGL, InterSOS, cooperative sociali di vario tipo, OASI, progetto Presidio Caritas e Solidaunia, per fondamentalmente porre una fine a questa piaga che sembra incredibile ma è ancora presente e attuale. Butta giù una proposta che cerca di abbracciare tutte le questioni che creano tutte le varie declinazioni dei problemi che vivono le persone, soprattutto i braccianti, e quindi ad esempio sicuramente la questione della comunicazione, che è errata, viene fatta una narrazione di questi luoghi assolutamente sbagliata, poi da un punto di vista legislativo, da un punto di vista giuridico, da un punto di vista dell'accoglienza e del diritto all'abitare di tutte queste persone, sono una risorsa fondamentale, come ci stiamo accorgendo adesso, da un punto di vista lavorativo, dei trasporti, perché non ci scordiamo che cose semplici e banali che noi riteniamo banali, in verità in quelle situazioni si ritrovano anche lì dei meccanismi di sfruttamento, e poi naturalmente una pianificazione istituzionale complessiva. Tutto questo naturalmente non può essere svolto da una sola degli attori in campo, deve essere fatto in modo coordinato fra tutti essi. Quindi non, perché appunto queste questioni non sono solamente non possono essere risolte da un solo ente, da una sola istituzione, bensì bisogna rivolgersi rispettivamente al Ministero del Lavoro, al Ministero degli Interni, alle regioni, a volte addirittura ai presidi sanitari, e via discorrendo, ai comuni. Quindi non deve essere una faccenda affrontata in modo globale. Non perdiamo altro tempo, andiamoci a sentire Alessandro, e questo è per voi. Abbiamo raggiunto al telefono Alessandro Verona, che è un medico, lavora per un ONG, InterSOS. Buonasera. Buonasera a te, figlio. Allora, intanto se ci puoi dire che tipo di lavoro svolge InterSOS e dove state lavorando attualmente? Io mi occupo di coordinare i progetti sanitari in Italia, cioè al momento sono tre, uno a Roma, uno a Foggia e uno in Calabria. L'attività che di solito facciamo in tempi più normali rispetto a quello che stiamo vivendo in questo momento è collegata molto all'empowerment delle aziende sanitarie. Lavoriamo rispetto alle marginalità che in questo momento coinvolgono soprattutto persone migranti in questo periodo storico, con l'obiettivo di dare delle competenze alle aziende sanitarie per essere più inclusive e aumentare la fruibilità dei servizi, l'inclusività dei servizi, e permettere appunto alle persone di raggiungere meglio il proprio diritto alla salute. In un momento d'emergenza come questo abbiamo convertito le nostre attività in queste tre località, focalizzandole tutto quanto sulla prevenzione del rischio coronavirus e l'individuazione eventuale di casi sospetti che sia tempestivo. Ecco, qual è la situazione soprattutto da un punto di vista sanitario all'interno dei ghetti, degli insediamenti informali? Negli insediamenti informali, tanto a Roma quanto a Foggia quanto in Calabria, non abbiamo nessun caso e l'obiettivo è quello di mantenere questo numero zero, perché in luoghi in cui l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari è molto spesso completamente assente e c'è una prossimità abitativa forzata, la trasmissibilità è molto più alta di quella che si può immaginare sul piano statistico in una qualsiasi città. Quindi la delicatezza rispetto alle marginalità sta proprio nella incapacità di mantenere delle misure preventive, semplicemente perché in questi luoghi riuscire a mantenere il diritto anche all'autoprotezione è estremamente, estremamente difficile. La diffusione del virus ha seguito in qualche modo l'ambiente socio-economico e quindi ha colpito soprattutto fasce più alte all'inizio. Arrivare agli ultimi, visto che viviamo in un paese con una forte compartimentazione sociale, sicuramente determina dei passaggi che impiegano del tempo. Immaginate, ora mi trovo a Foggia, immaginate quello che può essere un insediamento informale, magari non tutti lo sanno immaginare, noi lavoriamo in sette luoghi, due di questi sono baraccopoli, propriamente dette, in cui non c'è accesso all'acqua, servizi igienici e si è lontani proprio dall'abitato, poi ci sono un gruppo di masserie abbandonate che sono abitate da lavoratori e lavoratrici, tutti quanti sfruttati, e poi abbiamo una fabbrica abbandonata, in cui gli standard igienico-sanitari sono estremamente bassi. Riuscire a rispettare quelle che sono le misure preventive che sono caldeggiate giustamente dal Ministero della Salute e dall'OMS in quei luoghi è impossibile. Quindi immaginiamo una trasmissibilità estremamente più rapida nel caso in cui ci fosse anche solo un singolo caso. E che il dispositivo di protezione individuale, visto che tanto se ne parla ultimamente, più importante per le persone in condizioni di marginalità è il tetto. Il tetto è un DPI e senza un tetto tutto il resto delle misure diventano estremamente complesse, ma alle volte anche superflue. E immaginiamo cosa succede nel caso in cui poi quella cosa che ormai è percepita come semplice e naturale in qualsiasi abitazione italiana, una quarantena fiduciaria diventa impossibile se tu una casa non ce l'hai, è banale, però in realtà, visto che non c'è una grande consapevolezza delle marginalità in Italia, non è così automatico prevedere la tutela per tutte e per tutti nel momento in cui si parla di queste categorie, che sono effettivamente molto neglette. Allora, noi stiamo a parlare di ghetti in parte anche per il dibattito che si è aperto sulla questione dei lavoratori in ambito agroalimentare, quindi intanto ti vorrei chiedere se i lavoratori che lavorano nel tavoliere della Puglia abitano questi luoghi, questi insediamenti informali, in che misura questi sono stagionali e invece sono fissi, e se soprattutto anche la questione dei documenti, quante di queste persone hanno documenti, quante invece sono totalmente irregolari. Allora, in questo momento la popolazione degli insediamenti informali della provincia di Foggia è congelata rispetto ad un mese fa, non ci sono ingressi, non ci sono uscite e quindi possiamo dire che il numero di persone che sostanzialmente si trova in questi luoghi, in questi otto in tutto insediamenti informali, sono 2.400. 2.400 persone, di cui la maggior parte hanno un titolo di soggiorno, la maggior parte vuol dire oltre il 50%. Siamo intorno, non abbiamo il dato preciso di quest'anno, ma quello dell'anno scorso era intorno al 56%. Il punto è che questo numero rischia di diminuire per un fattore che purtroppo tutti o quasi tutti conosciamo. La legge 113 del 2018, ossia quello che prima era il primo decreto sicurezza dell'ex ministro dell'interno, ha determinato l'abolizione del permesso per motivi umanitari, che era fra l'altro il permesso più dato alle persone straniere come titolo di soggiorno. Nel momento in cui raggiungeremo dicembre di quest'anno non avremo più, o quasi, permessi di soggiorno per motivi umanitari. Quindi questa quota sicuramente vedrà una percentuale in riduzione, per cui per quanto sia la maggior parte avremo una quota crescente di persone non regolari sul territorio. La percentuale durante l'estate si aumenta di giorno, gli stagionali tendenzialmente l'anno scorso sfioravamo il 78% di persone che avevano un titolo qualsiasi, in cui includiamo anche i ricorsi, anche permessi semestrali. E arrivavamo l'anno scorso a 5.500 persone, e quindi più del doppio rispetto alla quota invernale, e due anni fa invece a oltre 6.000. Questo perché? Perché tutto il meccanismo del lavoro è collegato anche alle stagioni produttive, le stagioni sono più o meno produttive. Negli ultimi anni, da quanto dicono gli agricoltori, i lavoratori e le lavoratrici stesse, abbiamo una riduzione dei raccolti, funzione anche la crisi ambientale che stiamo vivendo, che comunque c'è sempre lì all'angolo da aspettarci quando sarà finita quella pandemica. Questo incide anche sui lavoratori. Ora, verifico enorme che copre il pudore di dire che è una sanatoria necessaria, ma in realtà non è soltanto una questione di sanatoria, non è soltanto questione di riconoscere il diritto a persone che lavorano di essere riconosciute come tali e quindi dare a loro il diritto. Tutto il diritto relativo al lavoro, le tutele, la sicurezza sul lavoro, la possibilità di essere riconosciuto come infortunato sul lavoro se ti fai male, invece di doverti nascondere, essere curato da bene meglio quando ci provano dall'agricoltore stesso. Le tutele sono in realtà un beneficio di tutti quanti, di tutta la comunità. Ma non si tratta, quando si parla di sanatoria, spesso ci si riferisce soprattutto al comparto produttivo. Se guardiamo anche il Ministero del Lavoro, ciò che dice non è servono diritti ai lavoratori, ciò che dice molto spesso è servono braccia che vanno a raccogliere i pomodori. C'è un'oggettivizzazione di quello che, ribadisco, è un diritto. Le persone che stanno in Italia, dall'Italia, non andranno via. Chi era prima al Ministero degli Interni e non faceva altro che proclamare che chissà quante migliaia di persone sarebbero state rimpatriate, ha mostrato nel tempo che era semplice propaganda non solo disumana, ma anche irreale. Pertanto riconoscere a queste persone la possibilità di uscire dall'invisibilità è beneficio per tutte le persone, per tutte le persone. È patetico che in questa situazione non si sia già agito per far uscire dall'invisibilità le persone. Nella nostra attività, rispetto al diritto alla salute, è chiaro che uno dei capisaldi è quello di far capire che la salute in Italia è per ogni singolo individuo e che non c'è nessun rischio nel rivolgersi ai servizi di salute, ma non basta dare un messaggio, perché alle volte questo messaggio può essere distorto da qualcuno che ne può avere beneficio. Chi sfrutta il lavoro, ad esempio, ha tutto l'interesse ad avere persone invisibili, senza diritti, che hanno paura ad uscire. Questa paura in questo momento, per persone che magari non raggiungiamo perché abitano in un casolare disperso in quattro persone, magari pensano io non sto bene, però ho paura ad uscire perché magari avrò delle conseguenze negative, magari non trovo più da lavorare. L'invisibilità è un danno per tutta quanta la comunità. Quindi, oltre alla sanatoria, riconoscere il diritto ad esistere di persone che comunque qua sono, qua rimarranno, e se sono disposte a vivere in condizioni così critiche, e cito parole di persone con cui e per cui lavoriamo, è perché non vogliono andare a rubare, vogliono vivere, non usano la parola con dignità, perché le persone sanno perfettamente che quella non è dignità, ma con onestà. Ecco, proprio per essere chiari sul perché si vengono a creare delle situazioni del genere, se ci puoi un po' raccontare come sono nati questi insediamenti, perché poi ognuno di essi ha una sua storia, quindi perché a un certo punto delle persone hanno deciso di vivere in delle situazioni igienico-sanitarie così degradate? La risposta breve è la mancanza di alternative sufficientemente dignitose da parte di chi è preposto a darle, cioè il paese. Questa è la risposta breve. Quella più lunga è che da 20 anni si specula, anche più di 20 anni, però rispetto alla alla componente di persone migranti, si specula sul lavoro sfruttato di queste persone e da 20 anni esistono insediamenti di questo tipo, che di solito si collocano in zone in cui per qualche motivo c'è meno attenzione, sia per una questione geografica, ma anche per una questione di chi possiede il terreno, per una questione collegata a quanto è distante una buona quantità di lavoro dal terreno stesso in cui ci si va a insediare. Chiaro che si lavora per prossimità. Nel momento in cui manca un sistema efficace di inserimento lavorativo, nel momento in cui manca un sistema di tutela del lavoratore, e quindi che non è semplicemente un sindacato che ogni tanto ti viene a trovare, ma che è un meccanismo efficace ed efficiente e presente soprattutto, le persone cercano di organizzarsi per riuscire a sopperire a tutto questo. Quando si parla di sfruttamento lavorativo, in Italia si parla molto di caporalato. Ora, personalmente la parola caporalato non mi piace, perché identifica in un anello della catena di sfruttamento, cioè nel primo elemento di sfruttamento, tutto quanto un meccanismo che parte dal lavoratore e lavoratrice che è sfruttato o sfruttata e arriva fino alla grande distribuzione organizzata. È comodo puntare il dito sul caporale. Il caporale magari è qualcuno che prima era il gradino sotto, però ha iniziato a conoscere meglio il territorio, magari uno che ha la patente, magari qualcuno che parla meglio la lingua, riesce ad essere un mediatore, non solo, non sto dipingendo le persone che hanno questo ruolo, perché tale è, come santi o altro, ci sono buone persone e cattive persone in tutti i contesti e chiaramente anche in questo. Però il punto, vi porto l'esempio classico, quando nel 2018, il 6 di agosto, sono morte 12 persone in un giorno, dopo che ne erano morte altre 4 due giorni prima a Foggia, questo incidente che molti ricorderanno è avvenuto a Ripalta, a pochi chilometri da Lesina, tra l'altro in un luogo dove andiamo a fare le visite mediche, proprio quel giorno stiamo andando lì. La reazione istituzionale è stata: taglia il caporale, troviamo tutti i caporali. Cioè trovare il corpo, no? La cosa da Bauman, identificare il problema. È molto più facile identificarlo su un anello che ha due gambe e due braccia della catena di sfruttamento che sulla grande distribuzione organizzata, che invece magari è più diciamo aleatoria, no? Nell'immaginario, e soprattutto c'è gli avvocati dietro. Ma tutto quello che ha determinato che 16 persone in 48 ore morissero non è stato toccato. Ci sono state sicuramente delle inchieste, senz'altro, però la reazione istituzionale è stata quella di muovere la forza pubblica per identificare chi trasportava, come se il problema reale fosse quello, ma il problema è molto più complesso. E poi, oltre al comparto lavorativo, c'è quello sociale. Immaginate che, così come, perché la parola ghetto, no? Noi la usiamo così tanto, ed è così brutta in realtà, ma così reale, che ci dimentichiamo da dove arriva. Il ghetto è il luogo in cui una comunità si chiude per trovare una forma di normalità. Il ghetto è il luogo in cui magari a tuo modo riesci a stare meglio perché ti riconosci come ti rivedi nel tuo vicino. E se questo accade vuol dire che c'è una repulsione esterna da quel luogo. E effettivamente è così. Prendiamo un altro esempio. L'anno scorso, a luglio, ci sono state 4 aggressioni nel giro di poche settimane, di 2 settimane circa, ai danni di alcuni lavoratori che abitano in una fabbrica abbandonata nel nord di Foggia. Queste persone sono state prese a pietrate, ovunque potessero essere prese, una di queste anche al volto, con una frattura angosta e zigomatica. Mentre andavano al lavoro alle 6 del mattino, due ragazzi italiani hanno pensato che fosse giusto mettersi la sveglia per andare in direzione contraria rispetto a quelle biciclette, bicicletta fra l'altro un simbolo di emancipazione rispetto al lavoro, molto forte, mentre andavano al lavoro in bicicletta per tenere la pietra in faccia. Uno di loro è stato addirittura speronato, andava in scooter lui, speronato su un incrocio, una porta davvero notevole, il volto sul manubrio, e questi ragazzi per giorni hanno ritenuto di fare queste azioni che non stanno neanche a qualificare, che non servono, però vi dà l'idea di un sentire, è lo stesso sentire che spesso quando c'era il ministro degli interni precedente, i ragazzi si sentivano dire, ma lo ripetevano spesso, una persona per strada, quando tornavano in bicicletta o a piedi dalla città, ora c'è Salvini, ora vi ammazziamo tutti. E non è successo una volta, due volte, tre volte. Questo tipo di clima, di odio pervasivo, onnipresente, determina anche che uscire da un luogo dove quantomeno viene riconosciuto come essere umano sia faticoso, che il contatto con la comunità sia faticoso. Questo non vuol dire che a Foggia sono tutte così le persone, è ovvio, però c'è, quando una società permette questo, chiaramente c'è una distorsione, che è una distorsione che abbiamo visto a tantissimi altri livelli in tutto quanto il paese, e soprattutto c'è stato uno sdoganamento da parte dei media, è una responsabilità enorme sul piano politico e sociale dei media. Quindi un ghetto è anche questo, un ghetto è un luogo in cui esistere. Quando sì, qualcuno viene in un insediamento da fuori, si guarda attorno molto spesso con orrore, che è vero, sì, sono condizioni che francamente sono impressionanti, ma non c'è solo quello. Io ci vedo anche qualcuno che gli toglie i documenti, in alcuni casi, gli toglie il lavoro, gli toglie il diritto di esistere, gli toglie la possibilità di avere una casa, perché un'altra cosa su cui non entriamo, perché è anche trovare un appartamento, magari qualcuno i soldi per prendere un affitto ce li ha, ma non trova chi glielo affitta. Gli togli tutto questo e la reazione è quella di costruire una città. Quindi io ci vedo anche una forma di dolorosa resistenza in un insediamento, soprattutto di quelli grandi, una forma di comunitarismo. Poi non è sempre così romantico, ci sono anche cose terribili, c'è sfruttamento femminile, purtroppo in alcuni punti molto evidente, ci sono diverse difficoltà, lo sfruttamento lavorativo tiene anche delle conseguenze importanti sulla gestione del potere interna a questi luoghi, però non è l'unica interpretazione, diciamo. Tra l'altro il dibattito pubblico si sta, appunto, come dicevi, orientando verso, soprattutto sulla carenza di lavoratori, e quindi si stanno cercando di creare dei canali preferenziali per far arrivare manodopera soprattutto da paesi esteri. Pensi che questo porterà quei lavoratori che arriveranno esattamente nella stessa dinamica, oppure che ci possa essere la speranza di condizioni migliori? Guarda, il superamento dei ghetti passa soltanto per la fornitura di diritti. Se si modifica la forza lavoro, magari quella forza lavoro sarà più monitorata, sarà più tutelata in qualche modo, è possibile, però fin tanto che esisteranno dei non luoghi come quelli che ho provato a raccontarvi, inevitabilmente attireranno altre situazioni che hanno bisogno di essere riconosciute da una comunità, sebbene chiusa. E quindi la soluzione ai problemi non è la produttività. Se continuiamo a guardare i problemi sulla base di produttività, non faremo altro che ricascarci puntualmente dentro. Questo riguarda anche il momento che stiamo vivendo, il dibattito quotidiano su aprire, non aprire, produrre, non produrre, Confindustria. È proprio questo il punto, che cosa mettiamo davanti? L'unico insegnamento che dobbiamo trarre da questa situazione è che c'è una cosa che dovremmo avere a cuore, ed è il bene comune. che sembra retorico dirlo, però in questo momento forse le differenze tra le persone sono evidenti, ma allo stesso modo i punti di contatto lo sono ancora di più. Siamo tutti fragili, soprattutto se siamo disuniti. E quindi discussione sulla produttività temo che in realtà ci allontani molto dalla soluzione dei problemi, sia esso sul piano lavorativo che sul piano di salute, fermo restando che lavoro e salute sono la stessa cosa, la salute globale include tutte queste cose come determinanti. Proprio riguardo a questo, la rete, l'ONG InterSOS, insieme a tutta una serie di altre associazioni che operano nella provincia di Foggia, hanno stilato un documento, si intitola Rompiamo la catena dello sfruttamento lavorativo, liberiamo i diritti, quindi è una proposta per la risoluzione del problema degli inserimenti informali e della mancanza di diritti per lavoratori e lavoratrici. Se ce la puoi sintetizzare un po', almeno nei punti fondamentali, perché da quello che posso vedere ha un approccio realmente multidisciplinare e va a toccare praticamente tutte le questioni della vita delle persone che si trovano a lavorare e a vivere in quei luoghi. Guarda, per sintetizzarlo, diritti, casa, lavoro e documenti. Bisogna confrontarsi con un problema ventennale che coinvolge migliaia di persone ogni anno, un numero crescente tra l'altro di persone, con condizioni di partenza per lo più invisibili e spesso non note alle istituzioni. Non ti nascondo che molto spesso, quando, soprattutto all'inizio, quando parlavamo delle situazioni reali all'interno degli insediamenti, le istituzioni non erano consapevoli dell'esistenza di alcuni di questi. Per cui come si fa a immaginare delle soluzioni, sebbene ci stessero provando, senza conoscere realmente la dimensione del problema? Il punto è che confrontarsi su questi temi, che ho citato proprio in una maniera ipersemplicistica, è una grande difficoltà per due ragioni. La prima è che gli interlocutori non sono univoci, perché ti devi confrontare con i ministeri per un certo livello, con le regioni per un altro livello, con gli enti locali, cosa davvero molto complessa, per altri livelli ancora. E al contempo il problema è la sincronicità. Non si possono affrontare tutta questa valanga di problemi, è una montagna, non più che una valanga enorme di problemi, in una maniera asincrona. Perché nel momento in cui tu intervieni su uno, le persone comunque avranno bisogno anche dell'altra risposta e delle altre tre risposte per uscire da quella condizione. La grande sfida è questo, riuscire a trovare una risposta sincrona, multidisciplinare, sufficiente sul piano quantitativo e qualitativo. E non, qual è il problema, a mio avviso, cruciale di tutto questo? Che le risposte che vengono date hanno il respiro di un mandato politico. Come se, vabbè, se lo faccio nel secondo mandato, che magari non ci sono, non ha più senso. Che è un problema in realtà a livello nazionale abbastanza evidente. Non c'è il ragionamento, una prospettiva molto corta. Se noi mettessimo, nessuno farà mai questo studio, ma sarebbe bellissimo se c'è un economista in ascolto, se qualcuno analizzasse quanti soldi sono stati spesi fino adesso, negli ultimi 20 anni, per cercare di contrastare in maniera emergenziale questa problematicità, questa mancanza di diritto, e li mettesse tutti insieme, probabilmente ci faceva una manovra nazionale oggi, probabilmente, perché si tratta di somme molto ingenti. Quindi dal basso, noi lavoriamo moltissimo con i territori, cioè l'idea è quella che i nostri progetti, se funzionano, devono morire. Le organizzazioni dovrebbero ragionare così e sedimentare sul territorio il più possibile. Abbiamo cercato di costituire questa rete, ci siamo riusciti tutti quanti insieme, di 15 associazioni. E abbiamo presentato un documento molto breve, la piattaforma della rete di prossimità della Capitanata, cioè tutte quelle associazioni che a vario titolo erogano qualche servizio relativo agli insegnamenti o che comunque conoscono bene la dinamica, e quindi sotto molti punti di vista, incluso anche quello della salute, abbiamo portato alla regione in particolare quelli che secondo la rete erano le cose che avevano funzionato e non avevano funzionato negli ultimi 20 anni. chiedendo che ci fosse un approccio diverso, un approccio non a foresteria fatta container, un approccio che avesse un respiro un po' più lungo e che considerasse l'utilizzo, innanzitutto quando si parla di case, che abbiano un tetto, perché di nuovo non possiamo sostituire un ghetto informale con un ghetto formale, non possiamo mettere le persone nelle periferie della città, addirittura fuori dalle città, e poi pretendere che ci sia inclusione sociale. E allo stesso modo, sul piano dei titoli di soggiorno, bisogna riconoscere l'esistenza alle persone che sono qua per lavorare, perché queste continueranno a lavorare lo stesso, ed è bene per tutti, in primis per l'individuo, che vengono riconosciute. Ma anche lì, come dicevo, l'interlocuzione non è più regionale a quel punto. Sono gli interni e il lavoro, i due ministeri di riferimento. Che forse ora si stanno svegliando, però la cosa male è che si stanno svegliando più su spinta di Confagricoltura che su spinta della tutela del diritto. Che è piuttosto amaro, visto che abbiamo un ministro che dovrebbe avere un passato bracciantino. Per cui la risposta in realtà non è univoca, non si può riassumere in maniera diversa. Certo è che non si può scindere da abitare, da lavorare e dall'essere riconosciuti come persona che ha il diritto di rimanere su questo territorio. Se manca uno di questi tre punti, in realtà non ci può essere una soluzione efficace. Cosa possiamo fare noi da qua, da altre zone d'Italia, per aiutare questo progetto e questo percorso? Guarda, innanzitutto serve consapevolezza rispetto a quello che, diciamo, a ciò che compriamo, perché in qualche modo stiamo investendo del denaro. Il consumo, tutti noi consumiamo, l'unica cosa che unisce veramente tutte le persone, anche senza consapevolezza. Nel momento in cui noi andiamo a comprare prodotti e sfruttano le persone, in qualche modo ne siamo parte, corresponsabili. Questo è il primo punto di partenza. Politico, ci sono diverse piattaforme che stanno portando avanti delle campagne in relazione al diritto dei lavoratori e delle lavoratrici di essere riconosciuti come tali. Diversi appelli per sanatorie, che sicuramente è importante che ognuno di noi dia la sua adesione. Sono tante in realtà, da io ero straniero in poi. E poi cercare di sensibilizzare la propria comunità. In un momento così, così delicato, in cui si percepisce questo distanziamento sociale, che in realtà è quello che ci ha portato anche a questa mancanza di diritto, la solidarietà, ricordiamoci che è ancora possibile. È possibile, ma non tanto sul piano economico, sul piano sociale, cioè ricordarci che anche nella distanza si può fare tantissimo, o attraverso le reti sociali, su internet, per mantenere alto il livello di attenzione sulle tematiche del diritto, ma anche in qualsiasi modo, anche il più semplice, quotidiano, fare dei gesti da lontano, quali che siano, per assicurare che siamo uniti. Quello che dobbiamo imparare da tutto questo è ritornare a essere comunità, perché la salute globale di tutti noi dipende da quella del nostro prossimo. Quindi per quanto sia difficile, cercare di dare un messaggio di positività in tutto questo. Bene, allora noi non possiamo fare altro che augurare buon lavoro e insomma, portare anche queste parole, e speriamo in più persone possibile. Grazie mille Alessandro Verona del Intersoft. Un abbraccio. Grazie. Ascoltaci streaming, i podcast, ascolta le repliche, accedi al nostro blog. Torno in regia, ma sono in chiusura, lascio spazio a Sara con le vertenze sull'area Firenze e Prato. Prima vi faccio un piccolo vi nomino poi linkerò nel podcast gli appelli che diceva appunto Alessandro. Ce n'è uno che è dell'ARCI, organizzazione Ero Straniero, chiedono alla Morgese, e a Catalfo, regolarizzazione stranieri in Italia. Ce n'è un'altra invece che è un appello per la sanatoria dei migranti regolari ai tempi del Covid-19, portata avanti dalla campagna nazionale contro la detenzione amministrativa dei migranti. Infine ce n'è un'altra che è stata redatta dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che sono invece tutta una serie di modifiche da portare al decreto Cura Italia. Con questo io vi lascio e la parola a Sara. Ciao a tutti e tutte, ci sentiamo sicuramente mercoledì prossimo. Il podcast sarà disponibile forse in serata, forse domani. Buona serata, Wabat.